quando quasi mezzo secolo fa, figuratevi, frequentavo da prima liceo, mi raccontavano come verso la metà del XIII secolo a Ser Jacopo de Benedetti, notaio ed esponente di quella che oggi chiameremmo il bel mondo in una cittadina dell'Umbria, e fosse toccata un'esperienza sconvolgente. Mentre partecipava a una festa, il pavimento del salone sprofondò e quasi tutti gli invitati ci lasciarono le penne. Lui si salvò per puro caso, ma perse la giovane amatissima moglie, si chiamava Vanna di Bernardino di Guidone dei Conti di Col di Mezzo, e immaginatevi il suo stupore quando al momento in cui il corpo fu composto per le esequie si scoprì che la donna portava sotto le ricche vesti un cilicio. Del tutto ignaro fino ad allora della vocazione ascetico-penitenziale della consorte, il giovanotto subì una crisi profonda. Abbandonò professione e vita mondana, si dedicò alla predicazione religiosa, entrò nell'ordine francescano, aderì alla fazione rigorista degli spirituali, ebbe a scontrarsi con il pontefice regnante, che era il celebre Bonifacio VIII, che proteggeva l'altra parte in causa, i conventuali, e siccome allora nelle dispute di quel tipo non si andava troppo per il sottile, finì per passare quasi tutto il resto della sua vita in galera. In compenso, grazie alle 92 laudi attraverso le quali diede voce al suo zelo mistico e alle sue opinioni sul Papa, e trovò stabile posto nella storia della nascente letteratura italiana con il nome restato famoso di Jacopone da Todi. Naturalmente, siccome la scuola ai miei tempi era prodiga di informazioni sui temi spirituali ma preferiva sorvolare su quelli più legati alla corporeità, nessuno si era preso la briga di spiegarmi esattamente cosa fosse un cilicio. Sì, era uno strumento di mortificazione e di penitenza, questo lo dicevano, ma in cosa consistesse e come funzionasse non era proprio chiaro. Che il nome derivasse da quello di una rozza veste intessuta di ispidi peli di capra portata un tempo dai pastori della Civicia, lo si precisava in tutte le note. Ma lì in genere ci si fermava. E soltanto in seguito avrei scoperto che si trattava semplicemente di una corda, di una grossa corda, guarnita talvolta di punte o uncine di ferro, ma non obbligatoriamente, che il penitente si stringeva attorno ai fianchi per avvicinarsi attraverso quel dolore autoinflitto alle sofferenze del Redentore. Le quali sofferenze, a dire il vero, a me risultavano inflitte da altri. Gente malvagia che per questo sarebbe stata punita, il che sembrava porre una qualche contraddizione. Ma anche su questi aspetti non era facile ottenere spiegazioni esaurienti. Il noto Don Giussani, che avrebbe dovuto curare la formazione religiosa mia e dei miei compagni di liceo al Bercé allora, di sofferenze e di civici non parlava mai. Preferiva intrattenerci su quanto una scelta di vita cristiana ben lungi dal rappresentare l'adesione a una prassi allora fin troppo diffusa, come sembrava a me, e fosse il non plus ultra dell'anticonformismo e della ribellione alle convenzioni correnti. Un capovolgimento retorico attraverso il quale riusciva a catturare non pochi giovani inquieti e a blindarli in una struttura che in un futuro ancora lontano, ma non del tutto ipotetico, li avrebbe schierati dalla parte di noti anticonformisti come Andreotti e Berlusconi. Insomma, avrei dovuto aspettare le dettagliate descrizioni di Dan Brown per sapere come è fatto l'oggetto in questione. La versione moderna vi si apprende, è tutta in purissimo acciaio. E le pacate dichiarazioni della senatrice Binetti per capire che il suo uso non è poi così straordinario, trattandosi solo di un qualcosa che ci costringe a riflettere sulla fatica del vivere, un po' come il sacrificio della mamma che si sveglia di notte perché il bambino piange. D'altronde ci hanno spiegato i giornali, con quello strumento hanno avuto familiarità Caterina da Siena, Tommaso Moro e persino Papa Montini, tutta gente di cultura che sapeva quel che faceva, e chi siamo noi per mettere in dubbio le loro scelte. Su tutto ciò, trattandosi di materia a me abbastanza estranea, permettetemi di non prendere posizione. Al massimo posso confidarvi di aver sempre pensato che per infliggersi volontariamente un qualsiasi tipo di sofferenza a fini spirituali bisogna avere una ben alta opinione di sé, una qualche forma perversa di orgoglio, nel senso di considerare insufficiente o comunque inadeguato quel tanto di dolore fisico e morale che domina Dio ritiene di spargere nella vita dei comuni mortali. Perché, salvo casi eccezionali di cui non ho notizia diretta, quella della fatica di vivere è un'esperienza comune a noi tutti. Tutti noi portiamo in un certo senso un cilicio inscritto nella fragile compagine del nostro corpo, e man mano che gli anni esigono il loro tributo tra malattie, travi che cadono, disgrazie, abissi che si spalancano, perdite, accidenti vari, paghiamo un contributo di sofferenze più che sufficiente a farci capire che non siamo venuti al mondo per divertirci. Volere soffrire di più di quanto ci è comunque destinato, senza neanche renderci conto dell'esistenza di una quantità di persone che delle sofferenze che gli sono toccate farebbero volentieri a meno, non mi sembra una grandissima manifestazione di pietà religiosa. Lo stesso Salvatore, se ricordo bene, avrebbe preferito che un calice tanto amaro gli fosse risparmiato. Ma di religione, lo ripeto, ci capisco poco e probabilmente mi sbaglio, per cui lasciamo perdere. Torniamo invece, che è meglio, torniamo a Jacopo de Benedetti e a Monna Vanna dei Conti di Col di Mezzo. È un caso interessante, al di là dell'aneddoto scolastico, perché si amavano molto, erano entrambi buoni cristiani, tanto è vero che il futuro poeta restò terribilmente sconvolto dalla dipartita improvvisa di lei, ma ciò non toglie che il loro comportamento, da un punto di vista, per così dire, esistenziale, non potesse essere più diverso. Lei portava il cilicio, sì, ma lo portava di nascosto, e in pubblico accettava la vanità di una vita mondana che evidentemente non le piaceva un granché, ma alla quale si sottometteva perché non aveva la forza o la volontà di ribellarcisi. Lui, quel triste oggetto, non credo l'abbia portato mai, neanche dopo la conversione, perché i francescani, a quanto ne so, non ne sono mai stati degli entusiasti. Ma trova modo di esprimere le sue scelte di vita e la sua volontà d'espiazione attraverso la lotta a un sistema che considerava corrotto e a un papa che considerava simoniaco e contraddittorio con i suoi stessi principi. Tenendo conto di come erano le prigioni dell'epoca e di come Jacopone parla del dolore fisico in una delle sue laudi più famose, quella del contrasto tra l'anima e il corpo nel giorno del giudizio universale, la sua parte di sofferenze non deve essergli mancata. Ma ammetterete anche voi che il suo è un caso del tutto diverso.